Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis. Nonostante conferenze internazionali, roboanti dichiarazioni e anche degli sforzi concreti come quelli fatti per rendere economicamente competitiva la tecnologia fotovoltaica, le emissioni nette di CO2 continuano ad aumentare e la concentrazione in atmosfera a crescere. Sempre più probabile, se non ormai già certo, è quindi il fatto che in futuro sarà necessario mettere in atto delle strategie per sottrarre attivamente anidride carbonica all'atmosfera, oppure il cambiamento climatico potrebbe diventare eccessivo o peggio, diciamo addirittura inarrestabile. Di quali siano in tal senso le opzioni oggi al vaglio concretamente della comunità scientifica discuteremo in questa e nelle prossime puntate, a partire dai risultati di un convegno che si è svolto recentemente e ha segnato la chiusura del progetto DESARC Mare Sanus, con cui si è guardato in particolare agli scenari che riguardano il Mar Mediterraneo. Ne parliamo con il professor Mario Grosso, che è responsabile scientifico della ricerca DESARC Mare Sanus per il Politecnico di Milano. Buonasera Grosso. Buonasera a lei. Allora, intanto diciamo subito che sottrarre CO2 dall'atmosfera, dove in ogni caso sarà presente in concentrazioni piccole, insomma meno dell'1 per 1000, è una strada che sarebbe meglio non dover percorrere. Certamente, noi come prima cosa dobbiamo impegnarci a cercare di azzerare le emissioni. Ci siamo impegnati, diciamo, in termini indiretti con un protocollo, un accordo di Parigi, che è basato non tanto sulla riduzione delle emissioni quanto sull'incremento massimo di temperatura che riteniamo accettabile, cioè questi famigerati 2 gradi, o meglio solo 1,5 di aumento rispetto al preindustriale. Ricordiamoci che adesso abbiamo già aumentato di 1 grado, quindi abbiamo pochi margini. Ecco, per fare questo noi dobbiamo arrivare a 0 emissioni nel 2050, e gli scenari ci mostrano che anche se fossimo estremamente ambiziosi e riuscissimo a dimezzarli ogni 10 anni, noi potremmo arrivare al 2050 dalle 40 miliardi di tonnellate emesse oggi ogni anno, scendere a 5, già sarebbe uno scenario estremamente ambizioso, però abbiamo ancora altre 5 che ballano e che dobbiamo rimuovere generando emissioni negative, cioè rimuovendo CO2 dall'atmosfera. Ecco, queste emissioni residue di cui lei parla sarebbero peraltro legate a delle attività che non prevedono magari neanche l'utilizzo di combustibili fossili, no? Pensiamo all'allevamento dei bovini, che emettono metano e da lì CO2. E soprattutto noi abbiamo anche altri processi industriali che generano CO2 a prescindere dal tipo di combustibile utilizzato. Come per esempio la produzione del cemento. Acciaio, cemento, esatto. Senta, allora, quali sono a questo punto le strade percorribili per sottrarre CO2 dall'atmosfera? Le alternative sono diverse. La prima è quella di fare una vera e propria rimozione della CO2 dall'atmosfera, quindi con dei sistemi che aspirano, immaginiamo dei grandi ventilatori che aspirano aria, la fanno passare attraverso degli impianti che siano in grado di rimuovere la CO2 contenuta in quest'aria. È a bassa concentrazione, quindi il costo di questa operazione è molto elevato, ma l'altro grosso problema che in realtà abbiamo sempre quando parliamo di rimozione di CO2 è dove mettere poi la CO2 che abbiamo rimosso. Certo. Un conto è toglierla, un conto è poi trovare siti di stoccaggio dove andare a mettere. Però progetti di questo tipo sono già stati implementati a livello sperimentale, a livello pilota, sia in Svizzera da parte di una società legata al Politecnico di Zurigo, che in Islanda, e anche un impianto sperimentale in Puglia. Probabilmente parliamo di quantitativi molto bassi perché siamo ancora a livello... Ecco, più o meno in questi casi si va a mettere la CO2 sottoterra. Sì, diciamo a livello sperimentale per il momento si limitano a dimostrare la fattibilità della rimozione, poi non viene ancora fisicamente stoccata, per i quantitativi sarebbero ridicoli, tranne in Islanda in realtà viene stoccata nel sottosuolo. Ecco, parliamo sempre di una rimozione, diciamo, chimica, per via chimica della CO2 dall'atmosfera. Sì, la rimozione prevede l'utilizzo di additivi chimici che sono in grado di rimuovere la CO2 o anche di sostanze solide che usano processi di adsorbimento. Quindi le tecnologie ci sono, il problema è che lavorando su concentrazioni così basse come quelle atmosferiche, che non possono essere particolarmente efficienti e quindi sono molto più costose che se le andassi a rimuovere da un camino di un impianto. Dove la CO2 è concentrata. Senta, però ci sono gli alberi che sono specializzati nel rimuovere CO2 dall'atmosfera così com'è. Esattamente, un'altra possibilità priorità è quella di sfruttare le potenzialità degli alberi e delle foreste che nella loro crescita, nella loro vita assorbono CO2 e a questo punto puoi utilizzarli per scopi energetici, ma andando a catturare di nuovo la CO2 che verrà emessa durante la combustione e stoccarla da qualche parte. Quindi complessivamente in questo modo noi sfruttiamo la capacità delle piante, delle foreste, degli alberi di rimuovere CO2. Questa è una tecnologia anche proposta che si chiama BECCS, Bioenergy con Carbon Capture and Storage. Bisognerebbe piantare degli alberi in più, diciamo, rispetto a quelli che naturalmente già crescono, poi utilizzarli come fonte di energia e quindi stoccare la CO2. Senta, una terza strada che è una delle più interessanti e forse anche delle più praticabili, invece chiama in causa gli oceani. Esatto, questa è la cosiddetta alcalinizzazione dei mari o degli oceani ed è il progetto che abbiamo portato avanti noi, che abbiamo presentato per convegno di cui parlava prima. Allora, qua l'idea, anche qui è una tecnologia già proposta, non ci siamo in realtà inventati nulla di nuovo concettualmente, ma l'idea è quella di combinare due problemi e cercare di risolvere simultaneamente. E noi pensiamo sempre all'incremento della CO2 in atmosfera che determina i problemi che ben conosciamo, ma questa CO2 che sta aumentando in atmosfera in realtà per il 30% si dissolve negli oceani, nei mari. E forse non tutti sanno che quando la CO2 si dissolve in acqua la rende più acida, quindi fa diminuire il pH. E noi stiamo osservando una diminuzione del pH. Certo, acidificazione degli oceani dovuta al riscaldamento globale. E voi volete fare esattamente il contrario, quindi? Esatto, quindi questo processo di alcalinizzazione prevede di andare a distribuire sulla superficie del mare, ovviamente in condizioni strettamente controllate, determinati quantitativi di calce e idrossido di calcio, quindi un prodotto che si ottiene dal trattamento di carbonato di calcio e di idrossido naturali, e in questo modo noi otteniamo un doppio beneficio. Il primo è quello di tamponare questa diminuzione del pH, quindi di diminuire la diminuzione del pH. Diminuire l'acidità, L'acidità, esatto, come quando prendiamo le pastiglie. Come quando prendiamo il bicarbonato, esatto. E simultaneamente questo però consente anche un maggiore assorbimento di CO2 da parte degli oceani senza causare appunto ulteriore acidificazione. Quindi noi otteniamo due piccioni con una fava con questo tipo di processo dal punto di vista concettuale. Va bene, allora grazie professor Mario Grosso, ma ci risentiremo nei prossimi giorni. Certamente, buona serata a tutti. Ci fermiamo qui cari ascoltatori, appuntamento a domani.